insalata e due melle mi sono mangiato. Sono al dolce, però devo dare una regolata perché sto giorno ingrassando. Come l'ho mangiato io, ho mangiato anche noi, petti di pollo e un po' di insalata, perché ieri ho mangiato un po' di boccetta, ci abbiamo mangiato, basta un po' di carne, quindi oggi carne bianca, va bene così, e anch'io ho preso qualche chilo. Infatti da domani iniziamo le pappuzze, saltiamo il pranzo, una bella pappuzza e mangio solo a cena. Cosa che si chiama pappuzza? È un integratore, Antonio. Mai sentito. È un integratore, che costa anche parecchi soldi. Integratore praticamente è un batto completo, capito? È una pappuzza, una cosa che metti, aggiungi l'acqua, sciogli e poi la bevi. Ed è un batto completo, però è un integratore, capito? Va bene. Cos'è? Non ho capito, no, cos'è che ti si è bloccato? Ma che si è bloccato la parola di questo microfono qua? Si può iniziare a insegnare le... Perché tu hai 18 parole fissa quasi mezz'ora, amici, così. Strano. Evidentemente sono... qualcuno si è lasciato qualche porta inserita in qualche posto. È fissa, proprio fissa. Boh, attento, non sei tu che c'hai qualche rientro e ci vuole dell'abortante. No, non ce l'ho, la verità non ce l'ho, perché pensavo che fossi io magari. Quando schiaccio è modo, niente, non succede nulla, è fissa di portate butta, non si sente nulla, ed è... mi senti? Allora sì, ma con l'audio si sente, allora. Solo il fuscino, evidentemente si è lasciato qualche cosa accesa, allora. Magari si è lasciato il microfono fisso, già si sentirà quando smette stanotte. Roberto, spegni la radio, spegnila. Aspetta, ho cambiato canale, più che altro. Adesso sono su cosa della... su PMR sono in verticale sul canale 7 con la X300. PMR è tutto trovato, non mi interessa. Va bene, ok, e io non sapevo c'era anche tu, dai. Gappa, va bene. Proseguita, io vado a vedere un po' di TV, ok, c'è Striscia Notizie. Buona serata a tutti, buon proseguo e alle prossime. Ciao Cla, alle prossime, stammi bene, ci sentiamo. Ciao Cla, ciao, ci sentiamo. Sì, a poco stavo dicendo. Sicuramente hanno la portata è fissa, devo sapersi la frequenza, controllo da qua, ma se è fissa. E la verità la frequenza non te la so dire, perché questo apparecchio qua è già stato programmato da mio cognato, quindi la frequenza non te la so dire, quella è 118. Non me la ricordo adesso. Sempre mancanti. Ormai non viene più in Sardegna, no? Se deve fuggire da lì, ormai l'ha messo in galera la seconda moglie, non fugge, non è come Crino che prima se ne andava in giro, lì c'è poco da stare in giro adesso, lì non si muove più perché la macchina la usa lei, lui in casa si tiene i bambini, fa il bambinaio. Se per dare invece no, che ci ha dimostrato più bene con Giovanna. Tranquilli, no, non li proibiva niente, perché ha voluto fare un marco. Ormai fu tutto. Ha scelto di andare di là e quindi è rimasto meno tramezzato adesso. Qui faceva quello che voleva per dire. Là non ho fatto più niente, la macchina la usa lei, se sta in casa, se non lavora, e se non lavora non fa lavorare, non è come faceva qua, se andava in giro con i balancelli, eccetera, eccetera. Hai capito? Va via Rumbo, però, va via Rumbo, ho visto, travagliava anche via vigilante. Beh, cioè, lo so. Di tutto ha avuto, ha fatto il corso per essere soccorritore e cose del genere, in ambulanza. Capito, non lo, se ne frega male male più che altro. A questo sarebbe stato tranquillo al 118, fisso, vedi, con quello che c'è adesso, sarebbe stato bene. Forse avrei fatto il corso di OSS, ma tranquillo avrei avuto il posto fisso. A testa sua, gli piaceva divertirsi, capito? Il discorso è quello lì. È stato fortunato lui, lui trovava i lavori per dire, ne prendeva uno, dopo un mese ne trovava un altro. Lui come me che vai a cercarlo, no, non c'è lavoro, non possiamo prenderlo lì. Vabbè, io non so, bisogna sempre, come si dice, io sono brutto, quindi, a un certo punto, che cavolo non vuoi che mi prenda in queste condizioni? Ma con i morti mi prendo, ok? Vabbè, in passato, detto, sì, per fortuna, però sei creato anche tu il lavoro, diciamo che c'è stato anche un periodo che non ti è mancato. No, grazie a Dio no, quel periodo lì stavo benissimo, la verità, guarda. È che non c'erano i fondi, se avevo avuto i soldi mi sarei fatto il laboratorio e mi avrei messo i soldi da parte, sarei stato tranquillo. E beh, che lavorato, avrei fatto al limite i corsi di aggiornamento, sarei stato tranquillo. Purtroppo adesso come adesso, no. E niente, ha detto, non potevo andare in nessun posto a me. I lavori ormai non puoi andare a casa dei clienti perché devi mettere la mascherina, prima di entrare lì devi chiedere se sono positivi, se no sei fregato e fare la fine di credito, cose facili ormai. Capito? Purtroppo questa cosa non si aspettava nessuno, questa cosa qui. Prima lavoro c'era, perché c'era, anche poco ma c'era, per dire, anche a tagliare erba, roba del genere, andava bene, capito? Adesso non puoi neanche più entrare nelle scuole a tagliare erba perché è un casino, capito? Ma poi, a parte adesso, questa, vabbè, è più di un mese che sta piovendo, vabbè, ma prima, non potevi andare con la mascherina, eccetera, eccetera, e c'era poco di casino prima. Sì, quello che ci può fare. Non è quello il problema, Antonio. Ma c'è qualcuno che vuole entrare? Non è quello il problema, Antonio. Se uno deve travagliare, ma chi? Adesso come arriva il tempo buono, ne vedi se c'è spugliatori andando. No, è questo il problema, no. Vabbè, ma che... che dura tutta canta la vita che sta buccaria. Speriamo che te li almeno il prossimo anno questa storia qua. Cioè, l'anno prossimo almeno quest'anno. Anche perché i vaccini non si sa nulla, se funzionano, se non funzionano, se sono stati testati, eccetera, eccetera. Poi magari togli questa cazzo ne arriva un'altra, cazzo di andata di una cosa differente. Ora vai, siamo messi male. C'è di tutto di più ormai, c'è l'australiana, la francese, la genovese, cose, un casino. Ci manca solamente la peste, guarda, siamo a posto. Ma cosa finirà questa porcheria e poi si ritornerà alla vita normale. Hai capito, abbiamo avuto, guarda che ne abbiamo avuto anche in passato di queste porcherie qua. Eppure tutto questo casino è successo. No, cioè, c'era poca informazione, sì, però negli anni 80 c'è stata una che c'è un'epidemia che non mi ricordo, queste cose ogni tanto succedono, però noi già siamo sempre vivi. Adesso vedrai, ci sarà il video su tutte le ragazze incinta tra poco, vedrai, a fine mese. Siamo scaldando un bene il letto, no Antonio? Cazzo, con la crisi che c'è lì, via San Donato, ne vedi poche ragazze cornute incinta, cazzo, vedi? Ogni giorno marito, cioè moglie ammazza marito, ci sarà l'epidemia. Ah, cosa? Sa se è pieno, sa se è vecchio lì. Stanno facendo i soldi adesso, me. Prima un tubo non serveva nessuno a fare una cosa del genere, adesso con quella scusa lì che non sanno come fuggire da casa della moglie, quindi se ne dice, trovano un amico, ci vediamo dopo, amore mio. Là si dice, tanto la moglie non gliela dà, quindi. Sì, vai tu, inteso vai. Ah, quando mai Antonello, c'è lui? Ma se c'è, ogni anno viene qualcuno, quello che ammazza il fratello che ammazza il padre. Lui ammazza la moglie, la moglie ammazza il marito. Cazzo, è diventato un togliaio adesso è diventato. Poi se sei vecchio, cazzo, non ho mai visto una cosa del genere, tutti gli appartamenti tutti pieni di male, sai? Poi buttano i preservativi nelle finestre. Io non ho mai visto una cosa, quando abitavo di San Donato era ancora tranquilla. Era molto molto difficile che ci fossero persone del genere, perché le facevano fuggire. Adesso invece all'attacco vanno tutti. Hai capito? Siccome lì a San Donato eccetera eccetera non incontrano nessuno, non ci posso manco passare, ci passa la macchina ma appena ci passa la panda. Ne accogli in questa bucaria, ma io non credo neanche a quello. Di solito chi fa quel mestiere lì c'è il contenitore, le cose, cioè sono puliti, cioè questa cosa che dicono secondo me non la palla. No che è vero, cioè. C'è un'amica che abita lì dove abitavo io di vicino e me l'ha confermato. Dice che la sera c'è proprio il fuoco, cioè dopo le 8 e mezzo, le 9 non si può più uscire. Hai capito? C'è da spacciatori e vendita di quella roba lì e nessuno si esce più fuori. Si è chiusa addirittura anche la pizzeria che c'è lì, che stanno là. L'ha proprio chiusa la me. Hai capito? C'è ancora uno se magari di piazzino casino. Tutto pieno di cose, di negri, di ragazze che battono, hai capito? Una volta battevano la pedaliera, adesso che la pedaliera non si può andare più nessuno, se tutti quanti si erano presi la casa in affitto, hai capito? Tanto di accedere ai redditi di cittadinanza, il bonus, quindi con quelli là si campano. Sì, si campano con un'altra cosa. Non penso che poi allora non sono anche di fuori, non penso che glielo diano. Però è un po' strana questa cosa. Lo so anch'io, però è così. Guarda che lì vi è stato dato, c'erano sì e no. No, niente, non c'è proprio nessuno che batteva, anzi ora c'erano le batteva quando abitavo io, dietro, era un trans era. L'unico che faceva quella cosa era quella lì, tutti gli altri erano tutti quanti di stanza lì, a parte i rubini che c'avevo vicino a casa, poi via le muraglie era pieno di ragazze che battevano, via la bambola altrettanto, quindi poi... cosa ti posso dire, via Gavino Presse c'erano stesso due abitazioni, battevano anche di lì, e poi addirittura anche vicino alla chiesa che c'è, dove sono le zone di clausura, lì c'erano degli appartamenti che erano affittati a queste ragazze qua, che battevano, capito? Di figurati. Vai tu. Una bucaria tutto il centro, la maggior parte delle case era tutte da Maria e Corso, capito? Quella roba da Zuino Auto, tutte comprate da loro e poi anche da un altro, quindi da Torre Olmeo si chiama. 20 appartamenti uno, 20 appartamenti l'altro, capito? E si facevano i soldi così, affittando 100 studi, 400 euro al mese, quindi figurati tu, e poi magari andavi all'ufficio del cartapo, non c'era manco registrato nulla, la metà di quegli appartamenti manco esistono più, perché quando facevi quando facevano il controllo non trovavi nessuno. No, il problema è che qui c'è tutti quanti che ci rompimento di scatole ci sono a Sassari. Poi magari se viene a casa a te e non te li date, perché è occupata da questi qua. Vabbè, poi ci sono i gasucci, gli appartamenti vicino a dove c'è la sede della polizia, dove c'è l'officina meccanica, lì sono tutte case popolari, ce ne sono due palazzi interi, ce ne sono vuote, quindi figurati tu, la voglia di appartamenti vuoti da poter andare a abitare. Ma non ho tridatene però. Oltre da loro devi avere una persona che, capito, devi conoscere qualcuno lì al comune e lui ti dice guardi dove chiavi, questo è l'appartamento per dire in via Sulcis, vai lì e te li prendi. No, veramente allora, le case che nuove che hanno fatto non sono lì in via Grazia Eletta. Sì, ma ci sono anche via Sulcis, ci sono. Sono due palazzine di fronte alla ferrovia, se ti ricordi bene. Sono due palazzine grandi, quelle sono quasi tutte vuote, so. Quelle sono case popolari. Ferrovia. Ferrovia e via Sulcis. Tiro il treno che passa in via Sulcis. Di fronte passa, no, non è che passa in via Sulcis. Passa tutti di fronte. No, aspetta, non vedo. Via Sicilia, no, via Sicilia quella. Quella dove c'è quella palazzina gialla, tra lui ce l'è presente. Ah, quella gialla blu. Ho compreso, cara. No, quelli non sono popolari, chi ci sono di corso. Le bare, chi ci sono di chi sui corri a macchina, di Maiona, chi ci sono. Di fronte a quelle lì ci sono due palazzine grandi, ci sono, le ho viste io. Sono tutte le case popolari quelle lì. Da ristrutturare col giardino. Dietro, guardate, c'è, come si chiama, dietro c'è il giardino, capito? Come l'ha fatto al monte, mi nelle casette ci sono. C'è in pratica da una parte c'è la palazzina, dall'altra parte c'è il giardino. Sono fatte la stessa identica cosa, sono fatte. Sono case popolari quelle, mai state abitate. Devono ristrutturarle, una volta ristrutturate e poi le danno in consegna. Magari c'è, è che bisogna conoscere gli enti, bisogna fare la domanda, devi mettersi in graduatoria, non è il lucino, poi se ti aspetta te la danno, se no hai zitti. Vabbè, e però ti fa la domanda, poi anche per dire per pagarti l'affitto, una volta che fai la domanda per pagarti l'affitto, poi ti mettono in graduatoria per avere la casa popolare. Capito? Se sei fortunato, se conoscete, entri subito come è entrato quando ci sono alberghiero, che è venuto la casa di Latroce in tempo di 6 mesi. Devi conoscere pure gli enti, ti indichi, fai questo e ti chiudo treno. Così, ma capo, ma quelle che hanno fatto al monte sono veramente belle. La prima volta che gli hanno ristrutturato tutto, ne è curato i galzagli, poi gli hanno ricomprate. E già me lo ricordo quello, già. Nel 2 giorni già me lo ricordo. Ma adesso gli hanno consegnato e sono a posto con le case. Capito? Sì. Lì è bello andare a abitare, nuove nuove, a voglia. Lì, quelle case lì abitava Tore Chopin, l'ultima salendo, per esattamente. Abitava lui lì. Ma è morto, mi hanno detto. Ma lo sa morto, già è vivo, è su Facebook. Ah. Ma chi è quello che non ha voce? E quello c'ha la voce. Ah, scappa. Sai che non mi ricordo chi è. Sono quelli che lo riconosci. Sì, sono passato un po' di anni, sono passato. Voleva bene Paoletto, no? Prima c'era Falcone, era. Quello sì. Ma c'era la Mantova a quell'epoca. No, la Mantova non c'era, quando c'era la Firenze 2 lui. Tu mi sa che non li conosci tu, adesso un paese, non li conosci tu io. Quante ne dici la baracca ho tu, attu? Un bel po' di anni. Ma ad esempio di pesche. Quanti anni ci sei? Boh, ero ragazzino, ero. Ti parlo dal 95, con gli anni di 94, proprio molto prima, dagli anni 80. Mi sa che non li conosci tu, adesso un paese, tu allora. Io ho iniziato nel 92, e 91-92, poi c'era mio fratello, forse anche negli anni 90, perché entravo di nascosto, non parla che non suo, e altro lo stavo appena conoscendo, e pensavo tu. Non lo so, poi ha smesso magari, no? Già, no, io lo vedo ogni tanto attore. Scappa, non mi piace più la realtà. Bello, c'era su canale 15 parlava, c'era il meccattivo della vendita di tutto, baracchini, stereo, quello che c'era Pallamattomino, Tore, Piero Drago, gli altri, almeno me la metto, gli altri non me lo ricordo, ma c'era su 15 era. Ogni giorno c'era la vendita, c'era il meccattivo, va bello. C'era proprio il giro di baracchini strane in cassa. Tu compri un altro amico, facciate un coso. Tutto è un motivo di tre, un motivo di due, uno un aide in quinto. Quella roba lì si vendeva allora. Erano usciti i primi 120 canali, 200. E ne hai messo 200 canali. Tutto vendevano, microfoni, tunnel. C'era un bel giro prima. Diventa di tutto, alimentatori, stereo, computer, vabbè, poi sono andati computer, poi sono andati computer. Il creato faceva i CD, sdoppiava i CD, sdoppiava, capito? Li comprava originali, poi prendeva e con computer stesso scaricava i ricordi, si faceva i CD e se li vendeva. Con quello si è campato. Andiamo. Cose vecchie furono, c'era quello. Eia! Anni fa era. Me lo ricordo io, cioè, comunque in casa c'è sempre stato il baracchino, alla fin fine. Beh, prima era pieno di CD, ma pieno, di mattina, di sera, di notte, di giorno. C'erano tutti i canali, c'era il 15, il 14, il 2, l'1, il 23, il 40, tutti i canali erano pieni, cazzo. Era la Fidozzi, era pieno, io mi ricordo. E avevo un bel vicino. Ma perché tu c'avevi quello che sempre c'avevi di vicino. E che sei dovuto sopportare. Già lo so, già. Ma la sorte che uscì a Buru Forti, poi cosa aveva via la matta, poi andare a Gabicciuria. Ma tu gliel'avevi piazzata, Antone? No, assolutamente non è piazzata mica io l'antenna. Io sono stato contento perché c'erano problemi, non mi ricordo per la parabola, mi sembrava che era. Cazzo, non sono salito su tutte le tegole, tutte completamente spaccate, cazzo. A parte quando sono salito poi non riuscivo neanche più a scendere, ho detto vai, fa il culo, non ci stai comando molto in questo palazzo, gli ho detto vai. Ma cos'è, non vorrà farsi a passare sotto? Se era la finestra stretta, ho dovuto mettere la scala, cazzo, dritta, cazzo. Tu immagini, ho dovuto far salire a cosa su e passavi su e cercavi di dirmi devo mettere i piedi, se no ci scelgo dritto come l'asino, gli ho detto. Allora mi ha dato una mano. E per carità, da quel giorno non ci potrò mai chiamare più, gli ho detto qua. E io qui non ci salgo più, non mi interessa niente. Non lo so, io non sono riuscito mai a capire, io pensavo che gli avevi fatto tattoo. Non sono mai riuscito a capire mai che gli aveva fatto, che gli aveva piazzato la mano a turbo. E a te ne è rimasto, gli ho piazzato almeno minimo di 50-60 da quando sono andato a Balacchino. A parte di Firenze 2, eccetera, eccetera. Era tutta un'altra storia prima. Salivo come il gatto delle nevi, salivo, capito? Ma adesso che ciò con l'età che ciò, non è più come prima, non salivo, sono contento a piazzare un'altra nel baracchino. Adesso ci penso due volte. Ti piace la tua e basta. Ma adesso è tutto senza finestre, quindi te lo ricordi che prima c'erano le finestre. Ne hanno bucato tutto, ne hanno bucato adesso e te sta aperto così. E ora ti sì, avanti. E beh, Bonelli. Poi, buonasera. Tonino. Ciao, Tone, ciao, Fortunio. Ciao. Antone, non sono mai riuscito a capire chi gliel'ha piazzata lì sopra. Non sono mai riuscito a capire. Vi siete sopramodulati, chi era? Io ero. Ma cosa tu? Tu stavi parlando della calata guardata, mi stavo salutando, chi è? Tu sei? No, ho saltato io. Più che altro. Come lo senti a bombolo Tony adesso, con l'apparato nuovo? Ma veramente non è passato nulla e l'altro. Lo sento tutto. No, aspetta, dai, non è apparecchio nuovo, questo è sempre quello che ho utilizzato. Aspetta che lo accendo, due secondi. Ehi dai, sto abbassando la visione. E a te bene, sto arrivando Tony. Sento uguale, 25, radio 5. Anda bene, già amplifica questo. Attento Tonino, mi senti? Beh, adesso è migliore la radio di prima. Vabbè, poco fa perché mi piace stare coricchiato, quindi devo utilizzare l'altro. Però sei basso il segnale. Come basso il segnale? Niente tu prendi, vai a vedere. Più basso dell'altro, Ma non ho capito che poco fa, 9:10. Anche con l'altro, non ho capito perché sei più basso. Sto usando poca potenza, sto usando Toniego già. Te? Hai zitto. A voi da vedere si ciamba la situazione. Sì, è lo stesso. Ma ti tocca a due giusto, sì? Ora. Ora. Sì, si è toccato giusto. Sempre lo stesso, Allora, ti spiego. Prima, giorni scorsi, quando ti abbiamo parlato, se io passavo l'EFGIN, ti portavo a Santiago 3. Adesso si Santiago 1 addirittura. Ma non sto pompando, capito? Sto andando, qua, vabbè. Sto andando basso, non sto spingendo. Tu cosa ti accaddo, Se vuoi te l'attacco, avessi ciamba la ragione. Ma non ne vale la pena, proprio qua c'è il locale, cioè, basta così. Vabbè, ripeto, Tonè. Meglio liscio che attaccato, naturalmente. Ti attacco mio ogni tanto quello che c'ho, a valvola. Ogni tanto già lo uso per farlo scaldare, ma no, non sempre. Io dopo domani mattina sto partendo. E dove sei andato? A farti la passeggiatina? Ma cosa passeggiata? Sto andando a Ravenna a operarmi l'edina dello spingisco. Ah, e allora almeno cazzo sei tranquillo quando rientri. Non devi stare ogni volta a stare male con la gamba che non ce la fai. Bella male, ti sei deciso a andare. Capo, anche Emanuele viene con me. meglio così, almeno ti fa compagnia. Fatto contatto quanto ci metterai, due giorni, uno di più. No, no, sì, ho per anche lui. Ah, anche lui lo stesso. Ah, è bello che lui c'aveva lo stesso problema. Mica. Via. Già tutto pronto. Tutto pagato. Arriviamo lì. Hola, hola. Allora. Parto dopo la mani, 13. E arrivo 13 sera. Mi fermo a Livorno. Ci dormiamo lì. Mi domani prendiamo il treno per Firenze, Firenze scendiamo, prendiamo la freccia a Italo, ci porta a Bologna, Bologna 4 minuti, però bene. Purtroppo ho dovuto fare così, non ci ho pensato più, quando l'agenzia se la biglia a luci, la fretta, quella con l'altro, al ritorno mi frega, perché al ritorno diversamente. Al ritorno facciamo Ravenna, Pisa, Pisa, prendiamo la Ryanair, andiamo a Ghero. Guarda Tony, si è aumentato il segnale. Prova. 1 e 3, prova. Adesso sì come prima, no, tu puzzi l'uso, mi sa che non niente attaccato. Qualche volta sai. Hai capito Tony? Fa bene a pompare, a pompare. Fa bene a pompare, Tony. A me la voce più forte. Come tanto ci vuole. Pompa tu che pompa anch'io. Scappa. Adesso lo stacco, tanto non lo corre, se non facciamo questo locale, cosa? Cosa ve l'attacca fa? Ma sono i batti della radio e pochi pure. Ok, andrà bene. Arrumba, salva. Così ti ho detto che arrivo al 9.25, Antonè. Ho capito, sono 9.25. Ti arrivo al 9.25, hai detto. Sì, sì, 9.25. Sto usando il codice 4000 in questo momento. Quello che c'era il fratello che ci ha messo io nel 2009, già lo sai anche tu. Perché il fratello del codice 4000 l'ho dato a te, quindi sto usando quello. E arrivi 9.25. Perfetto, infatti da quello usava Giovanna a casa sua. Guarda cosa cambia così. Ecco. Quanto sono calato? Segnale 9.5. Ma comunque aumenta un bel allora. E così è il massimo. A voglia, a voglia. Ma voglia vende. Già lo credo via. Io non ti arrivo lì su. 9.20. No, Poponio. 25 anche tu. Scappa. Sì, adesso stacco, tanto no. Non ne vale, basta quello là, basta, poco poco, senza stare a pompare. Mi basta quella potenza lì. Io la voglio basta avanza. 10 watt sto usando. Sago watt. Figlia. Arugrebo. Sì, 10 watt. Ti passa comunque, Antonio. Di poco mai ti passa. Lui è assassino, io sono fuori, Antonio. No, ma quello che lui... Lui è lì, c'è tutto unico, figurati. Quindi, come distanza siete quasi uguali, me. E tu, quanto stai pompando? Un po'. Un po' quanto? Un centinaio. Yes. Vai tu, 30 watt io sono. Gappa, gappa. Non so, vai, aspetta. Non ne vale la pena, dai. Aspetta, che mi metto come ero prima. Vedrai quando torno dall'operazione. Vediamo se ti passo, dai. Gappa. Appena che posso mi ritiro, un altro aggiggio mi ritiro, ecco quello lì fa la bua, ti premo non si toglie anche cose in occhio. Sono sicuro che tu a me non mi passerai, ti supero io, non preoccuparti. Mica me la piglia puntiglia. Se attacchi 900 watt è già lungo che mi basse. 100, viene poco 1000 sotto, l'ho preso. Beh, grazie, se lo vuoi pure io, pure io ti do con battaglia. Tutti siamo così. È normale, cioè. Non vale la pena, pochi watt bastano per comunicare dentro città, cosa ne fai? Io voglio arrivare fondo scala a Cotonio. Fa schiatta. Ti faccio spiglio i telefoni. Ti faccio schiatta. Come ti vedi a Cremo? Cotonio. Farà due, tre. No, aspetta, adesso attacco. Io metto io là, così lo faccio scaldare un pochettino. Io lo metto qua sopra, così attacco di lì anch'io. Voglio vedere come esce con le 4000. Dai, uè, qui ci metteremo qua sopra, Tore. Che? A voi la valvole già ne ho io, ne ho 7 valvole. 7 più quella più che ho già giapponese che ho qui, figurati. Adesso la provo un pochettino. Vediamo se esce bene. Io me lo scaldo un po'. Sotto ti tocca. Come qua. Ho ritornato con pochi watt. Mi sentite? Già ti sentiamo. Scappa, no, non è così. Non è vale la pena, c'è. Allora, chi di l'aria, abbassa un alimentatore piccolino e... E questa radio qua. Aspetta. Me lo ricordo, un casino che fazia. Uia. Era il ragazzo di Pomponio. È sicuro. Cosa se lo buttava in chibi la butteria? Come si chiama? Miau miau. Ui. Dai che domani sono già in fine, un giorno. E dopo domani. La macchina lascia fare con il caso e fatti. Ho prenotato il tassista alle 5 del mattino che viene a cancella a prendermi, perché alle 6 c'è il treno e poi devo andare a Urbia. A Urbia poi viene una persona a prendermi, mi porta all'Isola Bianca. La nave parte alle 11, la Grimaldi, e praticamente noi alle 10 siamo già sulla nave. Hai capito, Antonio? Che comunica con Rugoso? Con l'aereo? Allora, l'aereo che c'era ieri a Ryanair per Ravenna era il giorno 15 e io dovevo essere il giorno 15 alle 9 meno un quarto all'ospedale. Me lo sai dire tu come facevo? Ah, e allora? Bisogna andare per forza così. Ho fatto così per forza, partire due giorni prima, prendere la nave, così c'ho tutto il tempo con calma di cercarmi un B&B, capito? Piano. Cosa vuoi qua? Purtroppo è così, Ma ritorno non mi frega perché prendo l'aereo, capito? Faccio Ravenna Pisa, Pisa con calma. Prenoto e Pisa Alghero, va benissimo. Sì. Aspetta. Due secondi che... Ok, come sto uscendo? Adesso è 9.30. Ma sta che ce ne varia. Quando vuoi voglia dimmela voi. Ti porto via questo lineare. Non attacchi a casa, te l'attacchi. Appompa. Lo spedisci chi è? Ma qual è quello che ti ho visto io? Sì, quello vero, questo è il grigio. Poi c'è il mini amperometro, cioè il mini amperometro, ecco, non lo vuoi chiamare tu. Ma è quello trasistorizzato? No, con la valvola solo, con il posto autorizzato e ancora messo da una parte, lo cambiare il finale. Ho capito. Bene, bene, è quello, bene, lo sai. Il posto autorizzato o costa? Autorizzato è cioè, fino alla partita, con la valvolare. Passali un po' i batte perché è troppo ingresso. Ah, sto usando 15 watt tondi tondi per questo. Anzi, con quello che c'è tu lo davo 20. Figurati, altro. Perché è stato, lo so. Sì. Allora, questo era solo 15 l'apparato, non di più. Il 99 figura che arriva a 22. Invece con quello che c'ha... cosa? Ho avuto una moto di più. Aspetta. Ah, ecco, adesso avevo migliorato, guarda qua. Come si sente un altro? Migliorato. Leggermente, di poco. E bene ricordare che l'abbiamo acceso, quindi man mano che scalda la saturazione della via. Dunque sono con 15 watt in tondi, sono con 3.900, cioè con quello 4.000. E invece l'altro passato c'era Antonio, il mio, quello grigio. E quello quanto va? L'altro passato era 24 in uscita, questo va a 15. Non ho mai capito. Quello che stai usando, quello per volare, quanto va? 120 watt, tondi tondi. Solo? Ma te lo vuoi via, la valvola è così, mi lo sai che tu. Non è che ti piace un 50, no, la valvola è 120, perlomeno è del 519, 509, vabbè, io in questo momento sto usando la valvola americana, che non è la 509. Capito? Però penso che via di più, non lo so, ci vorrebbe un dato metterlo all'esterno e sapere quanto è giusto, giusto. Io avevo il Galaxy 1000 per volare di Antonè, tempo fa. Io non volevo il Galaxy 1000 con cosa guardi, quindi se ti capita un uguale, me lo dici, ti do la pilota e anche la valvola che sono appresso. Ti do la pilota e ti do le valvole. Non lo so, pesi ricambio, ma... Ah, beh, capito. Allora, se ti recupero un Galaxy 1000, ho io un pezzo completo, in pratica, per tenere di riserva. C'è la valvola pilota con la valvola che ci sono appresso, le altre quattro, hai capito? E te li conservi, c'è anche l'ultima come si chiama, la Falcuno, la tua, adesso mi viene mette il nome, con la bobina verticale, c'è anche quella addirittura. E mio c'era un Marco, quello Blacks 1000, che l'avevo venduto a 400 euro, mi ha fatto un assegno a Biuto, me lo vendi. E che se tu tuggi mi lascia proprio le mani, idrocruse, idroco, se mi devo regnare. Allora... è meglio che passi a casa di Marco, perché il valvolo completo del gruppo ce l'ho io. Tranne che il trasformatore e tutto il resto, che è stato buttato. Allora, con i guardi che c'è tutto, Bacchisa ce l'aveva. E poi Bacchisa l'aveva smontato e mi ha portato su le valvole, mi ha portato su la pilota e tutte le altre che ce l'aveva preso. Io ho fatto male a non denunciarlo, cazzo, mi ha fatto passare i minuti 3/4 ore, ragazzi. E vabbè. Comunque meglio che non lanciato, vai. Che ti avevo dicendo, le valvole ce l'ho io. Che il pigreco si chiama, cioè le valvole con il pigreco e la pilota, di quel lineare che c'avevi tu meno. Che poi in pratica tu l'avevi dato a lui e lui l'ha dato a Bacchisa. Perché sei andato bruciato e eccetera eccetera, quindi ha pigliato Bacchisa, si è incartato, l'ha svoltato tutto e mi ha dato solo le valvole. Ci ha portato via il trasformatore e tutto il resto. Ora aveva quattro valvole, se non vado errato. Bravo, infatti c'ho tutte e quattro valvole io, con la pilota. Quindi se ti capita un altro via, lo dici, ti faccia avere il cambio. Hai capito Antonio? Una buttidura. Cioè, un caramello un esito. Sì, ti lavo la macchina, ti do prodotti. Grazie, guarda quanto ero incazzato quel giorno. Tanto mamma mia che... E vabbè, meglio non pensarci, adesso mi arruini già vivo. Scappa. Forse ha più compreso, guarda. Aveva l'autolavaggio via Magellano. Ah, chi su? Chi su è? K, Marco. Ma Alfa Romeo si chiamava a far caso. K. Già più compreso, guarda. Che io non li incrocio mai, che lui abita... Io, nella stessa casa dove abito io, cioè io vado più su, lui è gira a destra, scende in una discesa all'interno, ho capito? Non l'ho fatto mai, non l'ho fatto, chissà se abita ancora lì. Ho conosciuto anche di persona quella persona lì, ho conosciuto anche di persona, per carità. Ma quando mai uno non deve essere onesto? Cazzo, non sei Gian Biotto, cazzo. Da molto sei senza vederlo. Qualche anno sono senza vederlo, è la verità. L'avevo visto l'ultima volta, l'avevo incontrato nella pizzeria Ottomotto lì a Latte Dolce. Poi non l'ho incontrato più. Io sono molti anni che non lo vedo. Era poco grassante, non so se si è ingrossato quello di più. Scappa. Non è giusto però che fare un culo di bassone. Se tu volevi lo mettevi nei guai, lo mettevi in pagamento, nei fatti suoi. Vabbè, sposato, moglie e figlio, non so come rovinarlo. Ma ha fatto così incazzata, e da pacchiare dai. Meglio non ci penso, Comunque mia, come devo trovarlo, faccia e faccia. Cappa, e tu hai fatto male il giorno a metterlo nei guai. Ma che imparava a non pigliare a fare un burro la gente. Antonio. Sì, comunque sei ingrassato, la verità. Io ho visto, sei ingrassato. Allora gli auguro che si gonfia ancora di più e scoppia. Che esagerato. Ogni tanto mi telefono, non sempre. Si è preso una barca, si è preso e c'era Castelsanto, ma sempre lì. Cazzo, vedi la buca la barca? Sì, cazzo. Mi danno 400 euro li faccio. A oggi sono 400, cioè 400.000 lire, a oggi sono 400 euro. Quindi. Oi. Vabbè, ma Baracchino non è più. No, non ha più Baracchino, non abita più a casa della moglie. Lui abita per i fatti suoi. Capito? Sono separati, già lo sai, non c'è più sopra la casa, cioè sopra dove lavorava lui. E qui abitava lui, nella tua che abito io, Antonè. Però prima sulla destra scendeva giù nella valle. Sì, a casa della madre, per esattezza. Lui c'è la casa lì. Attacca la diretta della madre e lui abita lì. Abita. C'è la mantova lì, piazzata, la verità, che c'è la mantova. Non so se è rimasta qualcosa, un dei barchini, cosa del genere, questo non te lo so dire. Mi sembra che aveva un gommone, quando i barattini mi sembra già ce li ha, se non mi ricordo male. E allora gliene prendiamo la mantova e se per caso la c'è cosa. Sì, allora domani sono giù, tutto il giorno sono giù e trovo la casa sua. Io riesco a giù, poi salire sopra, se sono con la mia vita, salire sopra. C'è la vita grande, c'è la mantova piazzata, capito? E lui abita lì, abita, anche con la mantova abita. E poi quella casa non era la sua. Gli era fatto il padre, in pratica. Sì. Non sono anni che non lo vedo, la verità. So che stavo ingrassando come un maiale. Io per il bene che vi voglio, gli auguro il vero cuore che si ingonfia ancora di più e scoppia. adesso mi sembra di ricordare così, perché ho detto che c'è solo Auge e un certo andando a fare la presentata, però meglio così, almeno qualcosa fai, e non potrei sapere a carico di tua madre. Ok, taga. Oi, oi, oi, alto, riprendi. San Marco Alfa Romeo, quel ragazzo magrolino. Cazzo, l'avevo pagato la Grax 1000 io, 400 euro, mi ha fatto l'assegno, a più della matta di Rivaria. Ah, ti lavo la macchina, con i prodotti, ma matta a dormire ogni anno, casino, guarda, è meglio che non lo trovo oggi che oggi, perché se me la pensarci, guarda, mi si incazza ancora di più. Ho capito, cosa ti ha fatto? L'avevo venduto a lineare il Galaxy 1000, 4 valvole, mi ha fatto un assegno 400 euro e al biondo. Stai cando, chisso? Quando c'era la magista lui, in via Magellano. Mi devo vedere 10 anni fa. Forse non hai capito, Luca, anche se fosse 20 anni fa, non me ne ha fatti nulla. Cioè, no, se poi non l'ho più visto io a lui. Cazzo di asso, per carità, buco. Ma quando te l'ha ricchiato mi sa segno? Sono solo in banca, vedi che pretendevo che ti denunciavo sul cazzo di giugno. Avacco, ma ti avrei voluto la metà abbassata? Io gliela avrei fatto. Capito, questo non ci mi sono, ma le tanti amiche a voi, per carità. No, da quella volta ho detto che non paga nulla, assegni, non le dice, non le voglio più. Batti un giambi, non ritiri in macchina bene dei liquidi. Da oggi in poi, cioè da quel giorno in poi, mazza. Il governo che andò a regare denaro, liquidi. Poi già te l'ho portato, ce l'ho portato, tu non l'ho più visto, sparito. Chiuso l'avaggio. Non ha fatto la fine che non ha fatto. Schifa nel mare, pure c'è nel mare, capito? Che se viene a vento la cuglia è tempesta. Un bel pompa fa questo apparecchio. Allora, ho fatto una prova una volta con la buonanima di Gatto Silvestro Corto Torres. Io non abitavo qua, giustamente abitavo a Sassari, vicino alla questura. 1000 watt sotto io e 1000 watt Claudio. Chi arrivava a Porto Torres, tanto è vero che già Paolo, Gatto Silvestro, ha detto cazzo di gentili bisogna scendere a Sassari, comunque ne passava né lui né io. Ma è Sant'Enno la buona, e se arrivi a Porto Scala a Porto Torres. È un bel forse. Una volta ho fatto una prova, ho sentito questo piccolo piccolo, Santiago 3 o 4, ho detto, e dove sei? Questo è il capocaccia. Ma io la controllo, e c'è che controllo ti do, sei dietro a me, dietro a te, io sono a Sassari, e c'è il fondo scala, pensa un po'. Ti ha fatto scintilli sia questa cosa. Io avevo la Mantova 1, no, era l'ultimo apparato, 2 vetri di raffreddamento, era un signor lineare, bello, bello veramente. Sì, sì. Quando bombava, mamma mia, io non che mi avessi bombardato, cazzo. E splattere, uia, tutti quanti bugia nei canali, abbattimento, ma se mi è giunta la pulizia la voce, sentiamo interferenze, e quindi pensa che io sono vicino all'antenata della polizia, io disturbavo anche a loro, tanto è vero, quando sono venuto a casa di notte, gli ho fatto entrare, gli ho fatto anche il caffè, dice cos'è questa cosa qua, e lui ha acceso una pentola. L'attimo, il secondo, il millesimo, il secondo che ho pensato, se me l'ha chiesto non so un cazzo di cos'è, ho detto guarda questo è un matching box, cioè è una cosa attorno all'antenna, se è un brucio lineare, ma è un brucio malachino, e se si è falato vuoi la mela, ho detto forse sto disturbando per l'antenna, vabbè cerco di abbassarla allora, ok va bene tutti tranquilli, bubu. Già matching box, già matching box, contenta, sicuramente da fare un battimento, non ne comprendiamo nulla. E ma se trovi con lo sveglio e come se lo capisce? Ma io ti sto parlando parecchi anni fa, ma un bermi. Già, un gioco di sciogliata. Sto mettendo il radio e andavano in tilt. no, era troppo bello, però era troppo forte. Altre leggi c'ero pericoloso, capito, no? Oggi che oggi è diverso. Però metti, non lo so, prima voglio fare l'antenna come dico io, mettere un metro liccio e metro 10 metri. Allora sì. Ma non trattai questa cosa, no? C'è mai che vedi guerre stellare? No, è andiamo dalla terra al 2000 watt. Ma ho detto non usare quell'antenna, se no riesci un buco. No, tranquillo che rimetto un'altra antenna, ho detto questo qui lo lascio dove. Questa lo uso per i cibi di Sassari e l'altra lo userò per fuori. Luca, riprendi. Luca Magnetti, Antonello. Qua sogno. A posto, a posto. Si è stabilizzato. Ok. Perfetta, perfetta l'antenna. C'è l'antenna lineare. Sta scaldando, sembra uno scaldino. Io mi sto scaldando le mani, però adesso vedi. Staccato. Boh. Liscio, liscio. Guarda a me, allora, io sono adesso attaccato. Dopodiché. Staccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È la radio anche più bella. Beh, logico che è più bella. Però se ne conta, da così. Da così. Tu sei da 9.10 a 9.20. Già va bene, a voi. A voi ce ne batte a volte. Ed è una volata da questa, una valvola. Ed è perfetta. No, con l'esattezza sei 9.25, Antone. Ho guardato meglio lo Smitter e sei 9.25. Già va bene. Basta un'altra voglia. Adesso appena mi sistemo quella cosa lì. Quando Antone non ha voglia si prende un briglianetto come si deve. A valvole lì. Sono piatto a casa. Ho assisto, vedi, qui, come quello che ho io qui buttato da una parte, piazzavo i quilli con le leggi 213, una bella antenna e vedrai come va a vendere il pesce la mattina presto. Antonello, non è che per caso ti ritrovi un condensatore da 600 volts, 47 microfara o 50 microfara? 600 volts, 47 microfarad. Cappa, o anche 50 microfara va bene lo stesso. Devo controllare in mezzo a quei condensatori che ho di quei televisori. Forse li monta quelli. Oppure quelli a switching, hanno entrato di switching così. Dei computer forse, cioè, li monta quella, una cosa del genere. Ti serve per dire in pratica per quelli ideali, mi sembra che mi avevi detto cosa. K-131. Vabbè, già controllo. Nel caso lo trovo, viene il WT, non c'è problema. Tanto già una carta tattica installata, basta che c'è una spina stagna, torni il vecchio, ci metti il nuovo, è a posto. K, controllo, è partito quello lì. Andrà bene. Te lo pago, non c'è problema. Cosa me lo puoi fare? Ma vai, lascia perdere. Non è per me niente, costa una cazzata quei condensatori. Allora lascia perdere, l'ho comprato mi sembra 3 euro. Quello di questo lineare dello spedisci che io ne avevo comprato 6, ne ho comprato. Figurati. Quindi. Se ne trovo te lo e te lo prendi, non voglio niente. Erano di bagabì. Sì, va bene, quello non c'è problema. Già ci vediamo a bere qualcosa. Per quello già non ci sono problemi. Ok, Antonio, ripeti. È bello il mio 131. Avevo visto uno, l'ho pure provato una volta. Cavolo. Molto piacevole, però era modificato, pompava di più. Non lo so, io non lo so modificare. Io posso modificare tutte altre cose. La donna te la modifico. Quanto arriva, Antonè, cambiandole la valvola, quanto arriva? No, devo lasciare il lavabo, ma che c'è? No, poi cambiare il lavabo, non è così facile, no?